Economia in Europa. In collaborazione con Euronet. Lo scandalo che ha travolto il presidente del Fondo Monetario Internazionale Dominique Strauss-Kahn e il futuro del Fondo Monetario Mario Draghi al vertice della Banca Centrale Europea e i dati sulla crescita dell'Eurozona. Questi temi al centro di questa nuova puntata di Economia in Europa. Le dimissioni richieste da giorni da Washington sono arrivate dopo la denuncia per violenza sessuale. Dominique Strauss-Kahn ha rimesso l'incarico e lo ha fatto attraverso una lettera indirizzata all'Executive Board del Fondo Monetario. Pronta la risposta dell'Unione Europea, che si è detta intenzionata ad esprimere una forte candidatura europea, come da tradizione la favorita sembra essere al momento il ministro delle finanze francese Christine Lagarde. Nel frattempo è stata ufficializzata dall'Ecofin la candidatura di Mario Draghi come successore di Jean-Claude Trichet alla guida della Banca Centrale Europea. Il via libera definitivo arriverà il prossimo 24 giugno, in occasione della riunione dei capi di Stato e di Governo dell'Unione Europea. Il passaggio di consegne vero e proprio è invece fissato per il 1° novembre di quest'anno, ma non è escluso che venga anticipato in conseguenza della difficile situazione economica dell'area euro. Nel comitato esecutivo della BCE, l'organo decisionale della Banca Centrale, siede già oggi un italiano, Lorenzo Binismaghi. L'insediamento di Draghi, secondo alcuni, potrebbe mettere a rischio la sua permanenza nel board. Il commento del professor Francesco Caselli, economista della London School of Economics, editorialista del Sole 24 Ore. Direi la prima considerazione da fare, che secondo me comunque rimane molto importante, è che la nomina di Draghi, la designazione di Draghi è forse il caso in cui più di tutti finora ha prevalso il merito sulle considerazioni di spartizione fra paesi delle varie cariche a livello di Unione Europea, di Unione Monetaria, eccetera, per cui è comunque un evento importante. Rimane il fatto ovviamente che l'Unione Europea è un coacervo di interessi nazionali, e per cui anche una volta fatto il bel gesto di nominare Draghi, che comunque è una cosa molto importante, e riemergono subito le esigenze dei vari paesi di preservare la loro posizione, le loro quote, fra virgolette, nei vari consigli delle varie istituzioni europee. Però io direi che questo è fisiologico al modo in cui funziona l'Europa, e non dovrebbe detrarre troppo dalla soddisfazione per aver visto almeno un caso in cui una carica importantissima è stata data al miglior candidato e non a quello del paese a cui toccava. Secondo me è importante capire un po' cosa significa un banchiere centrale italiano agli occhi dell'opinione pubblica europea. E vale la pena di ricordare che quando ci fu il grande dibattito tedesco sull'opportunità o meno di rinunciare al Deutschmark e passare all'euro, il grande slogan degli oppositori dell'euro era di dire: guardate che con l'euro si rischia che gli italiani facciano i banchieri centrali europei. E questo è il livello di sospetto e di preoccupazione che un italiano alla guida della politica monetaria europea suscita. Ora, in parte questo sospetto e questa ansietà deriva inevitabilmente dal passato di paese ad alta inflazione che l'Italia aveva prima dell'unificazione monetaria. Quasi che gli italiani abbiano una reputazione di mancanza o di mancanza di disciplina o di volontà nel gestire la politica monetaria, è strettamente collegata alla finanza pubblica, no? E quindi c'è un'ansietà legata alla performance storica dell'Italia su questo fronte. Il prodotto interno lordo dell'Eurozona crescerà nel 2011 dell'1,6%, è quanto si attende la Commissione europea, che conferma le previsioni del febbraio scorso e mette in guardia da nuovi rischi che potrebbero minare la ripresa, come un eventuale peggioramento della situazione dei debiti sovrani di alcuni paesi. A trainare la ripresa europea è sempre l'economia tedesca, che quest'anno crescerà però del 2,6%, dopo il più 3,6% del 2010. Resteranno in recessione invece Grecia, -3,5%, e Portogallo, -2,2. Il commento ai dati del commissario europeo agli affari economici e monetari Olli Rehn. It may be Friday the 13th, but for once I have some good news Anche se è venerdì 13, per una volta ho buone notizie circa l'economia europea. Restano comunque rischi importanti e elementi di vulnerabilità per lo scenario economico, così come per il mercato dei debiti sovrani. Inoltre, il ritmo della creazione di posti di lavoro rimane ancora insoddisfacente. Prevediamo che l'economia europea continui la sua graduale ripresa sia quest'anno che il prossimo. Permangono però squilibri tra i diversi Stati membri. Le previsioni di crescita per quest'anno sono state leggermente riviste al rialzo rispetto allo scorso autunno. Anche le previsioni riguardo l'inflazione sono state riviste al rialzo e ciò riflette l'aumento dei prezzi delle materie prime, che crediamo sia per lo più temporaneo. Per il mercato del lavoro prevediamo un lento miglioramento, anche se con differenze significative da paese a paese. But only slowly and with significant differences across the countries. E a proposito di Grecia, il commissario Rehn è intervenuto anche sulla grave situazione del paese e ha lanciato un appello a tutte le forze politiche affinché ognuno si assuma le proprie responsabilità. Sentiamo. Concerning Greece, our review mission is currently in Athens together with the ECB and the IMF. Per ciò che riguarda la Grecia, ad Atene è in corso la missione targata Commissione Europea, BCE e Fondo Monetario Internazionale, proprio per aggiornare la valutazione sulla sostenibilità del debito pubblico greco. Il lavoro si concluderà nelle prossime settimane e prenderemo delle decisioni. Ma non ha senso ora azzardare speculazioni su dettagli e cifre sui possibili nuovi aiuti. Lunedì prossimo discuteremo e nelle prossime settimane, quando saranno noti i risultati della missione, valuteremo il da farsi. È chiaro che la Grecia deve rafforzare il cammino delle riforme economiche. È anche assolutamente necessario accantonare le divisioni interne e mostrarsi responsabili a tutto campo. La crescita nel primo trimestre è stata sorprendente in positivo, perché il PIL è cresciuto dello 0,8%. Si tratta di una buona notizia, anche se non bisogna tirare conclusioni affrettate, perché si tratta pur sempre di un solo trimestre. Resta il fatto che ci ha sorpreso positivamente e penso sia un segnale incoraggiante per i futuri sviluppi dell'economia greca. To my mind that is clearly encouraging in terms of the economic development of Greece. Sempre sulla delicata questione greca è intervenuto il presidente della Commissione europea, José Manuel Barroso, al Bruxelles Economic Forum. Secondo Barroso, la ristrutturazione del debito del paese non può assolutamente diventare una scusa per evitare il necessario aggiustamento delle finanze pubbliche. Riguardo il sostegno finanziario ai paesi dell'area euro in difficoltà, gli aiuti sono soggetti all'applicazione di un severo programma di aggiustamento e gli aiuti vengono accordati solo dopo che questi programmi hanno ricevuto il via libera. È stato il caso del Portogallo, discusso questa settimana all'Eurogruppo e all'Ecofin. Sottolineo che per gli Stati membri che hanno intrapreso programmi di aggiustamento, il percorso è necessariamente doloroso perché comporta la correzione di squilibri profondi. Se però è fatto nel modo giusto, i paesi avranno dei benefici. I risultati non saranno immediatamente visibili, ma ci saranno. Occorre tempo, bisogna perseverare. Voglio essere assolutamente chiaro. La ristrutturazione del debito non può essere un'alternativa ad aggiustamenti delle finanze pubbliche, che sono dolorosi e necessari. Dalla crescita ai salari. Nei giorni scorsi l'OCSE ha diffuso il rapporto sull'incidenza di tasse e contributi sulle retribuzioni in Europa. L'Italia resta in fondo alla classifica, ma sale dal 23esimo al 22esimo posto, superando la Grecia. Il salario netto medio di un single senza figli a carico in Italia è stato di $25.155 nel 2010. La cifra è inferiore sia alla media OCSE, $26.436, che a quella dell'Unione Europea, a $15.030. Il commento del professor Mario Vavassori, docente di gestione aziendale al Politecnico di Milano e presidente di ODM Consulting, che monitora costantemente l'andamento di redditi e retribuzioni. Ma guarda, leggiamo i dati puliti, ripuliti. Un single che paga il 46,9% su 27.800 euro, che è la media nostra e la media dell'OCSE, c'è una differenza di pochissimi euro. Un single prende 1.150 euro netti al mese. Sono poi i ragazzi di 1.000 euro, ma anche i single. C'è una media tra il ragazzo che comincia a lavorare e prende 1.000 euro e il signore che vive da solo, o la signora che vive da solo. Colui che ha invece un genitore con due figli a carico, all'estremo opposto, prende 1.600 euro al mese netti, quindi paga il 27%, ha un cuneo fiscale del 27%. La situazione media è di due genitori con due figli a carico, che arriva a 1.350 euro, quindi con un carico del 37%. Il sistema, ad esempio, tedesco ha uno scorrimento molto inferiore. Cos'è lo scorrimento? Uno scorrimento tra il massimo e il minimo, quindi noi abbiamo uno scorrimento che va dal 46 al 27% di tassazione. La Germania ha uno scorrimento molto, molto contenuto, nell'arco di 10 punti. Noi abbiamo uno scorrimento di 20 punti. Quindi il fatto di avere un figlio, non averlo, conta molto. Per noi conta molto, mentre invece in Germania conta un po' di meno. Aggiungiamo a questo che in Germania comunque i servizi sono uguali per tutti. Quindi ci sono comunque i servizi, con quella 10% di differenza si pagano comunque dei servizi che sono molto più efficienti dei nostri. Perché c'è questa differenza? Detto in due parole, semplicemente noi abbiamo una crescita interna molto più bassa, abbiamo passato forse non ancora completamente la grande crisi e in questo momento abbiamo finito di leccarci le ferite e stiamo cominciando a tranquillizzarci. Non ci sono stati aumenti di stipendio, anzi c'è una piccola flessione. Nel 2010 c'è stata una piccola flessione per i dirigenti e per gli operai. Per Economia in Europa è tutto, alla prossima settimana. Economia in Europa, in collaborazione con Euronet.